Zolt. Fulminati in azienda. Pacco, chiamatemi Pacco e c'è un sacco di lavoro da sbolognargli. Centrifuga, ascolta, non so proprio come dirtelo. Io non mi ridi che io sfrutto troppo gli stagisti. Lo stagista voi del personale o modate o non modate. Se modate io spremo come un limone. No, non è questo, figurati Centrifuga. È che oggi Pacco non ti può dare una mano perché non c'è Pacco oggi. Ma come, non c'è? Scandaloso. Ma come, uno stagista sta male invece di avvertire il suo capo da assenza, chiama quelli del personale. Ma Pacco non sta male, forse sta male. Schedula, te vedo confusa, Schedula. No, è che è scomparso da 3 giorni e nessuno sa dove sia. Dico, ci ha chiamato anche sua mamma, perché è angosciata, perché da 3 giorni non lo sente al telefono. Tre giorni? E com'è che io non me ne sono accorto che manca da 3 giorni? Ma perché te l'ho detto, tu non sai gestire le tue risorse, Centrifuga, non presti attenzione. Dico, uno stragista scompare così nel nulla e tu non hai neanche la minima awareness del fenomeno. Dico, non lo sai. Io, Schedula, dopo aver fatto il corso sulla delega, io ho delegato la risposta a 179 reclami dei clienti. Io ho detto di farsi rivedere solo a questione chiusa. Sì, ma se adesso non ritorna, dico, come facciamo? A Schedula, stai tranquilla. Che vuoi chiamare? Chi l'ha visto? Uno stagista fedele ritrova sempre a via di casa. È terribile, Marco, è terribile. No, Fon, per una volta che la scelgo io la location per l'evento dei top client, l'ho scelta io e va bene così. No, non parlavo della location, Sembort va benissimo. Ah, ecco. È che sono 3 giorni che il nostro stagista Pacco non viene a lavorare, ma io non ho più nessuno a cui delegare l'organizzazione dell'evento. Ma capo, è una tragedia, guarda, in questi 3 giorni che Pacco è scomparso si è bloccata la gestione degli ordini ai fornitori, la contabilità e consegnare dei vendita. Sì, ma siamo impazziti qui. Ma sembra che adesso lo stagista conta di più del direttore generale, non ho capito. È l'organizzazione snella che hai voluto tu. Non ci sono più le linee gerarchiche e tutto il lavoro si scarica sui stagisti, che in pratica ormai hanno il controllo totale dell'organizzazione. Ma come faccio io adesso a spedire le buste degli inviti ai clienti top? Pacco è l'unico in azienda che sa attaccare il francobollo sempre perfettamente perpendicolare al logo impresso sulle buste. Oh, un talento rarissimo. Aspetta che Pacco. Aspetta. Dai, parlagli tu, dai. Pronto, Pacco? Dove sei finito? Guarda che te licenzio, eh? Dottor, a parte che non la me può licenziare perché sono stagista, lei la mega da descrivere le risposte ai 179 reclami era assai difficile, Sì. Tutti i reclami di gente che aveva ottime ragioni per reclamare. Ecco, e te pare che sia un buon motivo per scappare? Il cliente inferocito va affrontato come il toro na arena. Ma mi non sono mica fuggito, no, a me mi sono ritirato in riva al mare. Bravo. Per pensare con la meditazione creativa alle migliori risposte da dare ai clienti. Ecco, allora, la prossima volta che te ritiri e non me lo dici, te ritiro il permesso di ritirarti, hai capito? Ma mi la consentito, dottor, l'altro giorno alle 9 di sera che è in ufficio. Ma lo sai che non mi ricordo sto fatto. Adesso lo capì. Quando la mega dito di sì con la testa la che aveva gli occhi chiusi e mica pensavo che anche la sua fosse meditazione creativa. Allora oggi è un grande giorno. Pensavamo che un nostro stagista storico, una colonna vertebrale della nostra azienda, si fosse smarrita e invece no, ha ritrovato la retta via. Per questo oggi ho pensato insieme a voi di ammazzare il vitello grasso, come si faceva una volta, e di sospendere per un giorno il menù probiotico aziendale. Ecco, però a me che devo organizzare il lavoro di tutti gli stagisti, mai un ringraziamento a Pacco solo per 3 giorni d'assenza fisica a grande festa. Ma come sei? Ma non capisci? È un segnale per rimotivare tutti i giovani stagisti dell'azienda. Okay. Perché noi sappiamo quanto valore hanno le risorse più giovani della nostra organizzazione. Ma Pacco mica è giovane, è già al 30° stagio. Pacco, vieni qui, stagista prodigo, che per ben 30 volte sei sempre ritornato nella tua casa, nella casa del padre, con noi che siamo la tua famiglia, ti nominiamo risorsa umana del mese. Un applauso per la ringrazio Marco. Grazie a tutti, grazie dottor, grazie. E solo così, parlando a nome di tutti gli stagisti, riuscirò ad avere almeno stavolta il contratto a tempo indeterminato? Ma no, Pacco, ma no, NCS! Leggi le sacre scritture, cosa ci insegnano? Al figlio il prodigo che torna a casa, il padre fa gli onori, è una grande festa! Ma mica lo inserisce stabilmente in organico! Se vuoi saperne di più, www.zot.tv 3Z2O 1T.